Prossimo tuo, rubrica in collaborazione con la Caritas. Segnatevi già le date: 31 ottobre 2013, 3 novembre 2013. Pochi giorni, poche ore, 72 per tirarsi sulle maniche. Prove di un mondo nuovo. È la terza edizione di questa iniziativa lanciata dalla Caritas veneziana con l'invito rivolto ai giovani dai 16 ai 30 anni, singolarmente o anche come gruppi dai 5 ai 10 membri. Lo scopo di questo progetto è avvicinare giovani al volontariato, portarli a conoscere realtà vicine ma poco conosciute, senza la necessità di un impegno continuativo ma limitato nel tempo, appunto a 72 ore. Il progetto nasce dalle Caritas di Trento e di Bolzano, già attuato nel 2011 e nel 2012 anche a Venezia. Sentiamo uno dei giovani, tra i tanti che hanno promosso questa iniziativa, Luca Mareso, al microfono di Alessandro Poletto. Dunque, la seconda edizione ha visto 16 soggetti promotori, la realizzazione di 26 progetti e la partecipazione di 192 giovani per 72 ore. La terza edizione vede subito il coinvolgimento di nuovi soggetti promotori, siamo arrivati a 21 soggetti promotori, quindi chi lo promuove è un numero più consistente di persone. L'obiettivo della terza edizione è senz'altro l'aumento del numero dei progetti e l'aumento del numero degli iscritti, a cui offrire le opportunità che abbiamo già offerto lo scorso anno, nella linea di continuità sia con le caratteristiche del progetto che con lo spirito del progetto, che abbiamo visto che è uno spirito vincente. E nelle prossime settimane saranno i giovani stessi a proporre ad altri giovani questa iniziativa. 72 ore con le maniche in su dal 31 ottobre al 3 novembre. Sentiamo un'altra giovane del gruppo promotore, Giada Mezzetti. Allora, noi cerchiamo di motivare i giovani ponendogli davanti a una sfida, una prova quasi di coraggio, e li invitiamo a mettersi in gioco e proprio offrendogli l'occasione di prestare servizio presso alcune strutture. E la cosa che forse li attrae di più è il fatto che è un progetto a scatola chiusa, nel senso che loro fino all'ultimo momento non sapranno dove andranno, e di conseguenza forse anche questo li porta, li motiva ad iscriversi al progetto quasi appunto come una sorta di sfida. È una proposta per 72 ore che diciamo è occasionale, ma che per alcuni poi può diventare anche continuativa se lo vogliono. Certo, ben venga se appunto continuano, nel senso che proprio il nostro obiettivo è quello di dare appunto uno sforzo di cosa significa proprio prestare servizio senza alcuna pretesa di continuazione, senza alcuna pretesa poi appunto di ritornare presso le strutture in cui hanno prestato servizio, ma semplicemente a livello conoscitivo e informativo. Prossimo tuo, rubrica in collaborazione con la Caritas. L'iniziativa, come detto, dal 31 ottobre prossimo al 3 di novembre, c'è tempo fino al 30 settembre per iscriversi sia singolarmente che in gruppo. I progetti che potranno essere realizzati al momento a insaputa dei partecipanti, perché lo scopriranno proprio in quell'occasione, saranno l'organizzazione di una festa per una casa di riposo, la riqualificazione di un'area degradata, la pulitura di uno spazio verde, l'animazione di un centro giovanile, il servizio alla mensa per i poveri, l'organizzazione di una festa in una struttura per disabili, l'accompagnamento degli anziani di una casa di riposo al mercato, attività con minori stranieri non accompagnati o l'organizzazione di una festa interculturale con famiglie provenienti da altre nazioni. Sentiamo un'altra voce su questo progetto, il direttore della Caritas veneziana, Monsignor Dino Pistolato. Papa ha detto che il pastore deve sapere di odore di pecora, perché se l'ha portata deve... Io dico che anche le pecore sono state in spalle al pastore, sapranno un po' di profumo del pastore, forse dicono, cioè si scambieranno gli odori, ecco. Allora, questa iniziativa del terzo anno credo che corrisponda a quel progetto che proposta pastorale che il patriarca sta elaborando, perlomeno per quanto riguarda due delle tre questioni, perlomeno quella sui giovani e quella sulla dottrina sociale della Chiesa, perché il servizio che si svolge dentro una socialità sono contentissimo personalmente perché finalmente abbiamo perlomeno i luoghi di tutti i 6 comuni che fanno parte della nostra diocesi. Eravamo per più con 1, con 2, con 3. Finalmente dico, speriamo che poi sono anche tutti propositivi dal punto di vista anche dell'offrire il progetto. Secondo aspetto è che in questo arco di tempo era partita solo questa realtà e avete visto che man mano le cose crescono, no? Il corso, altri momenti di presenza in diverse occasioni, circostanze, l'esperienza adesso con Isaac, che questa accoglienza di 10 stranieri dove si è costruito un progetto coinvolgendo la Querini Stampali in questo caso, quindi anche questa volta in 3 dicono manichi in su, le Querini Stampaglia e l'università che fa lei la selezione dei giovani che mi pare vengono da tutto il mondo, praticamente dalla Cina, non so dopo come si capiranno, è un problema che lascio agli altri. E il corso che sta facendo, il corso che si farà anche poi, che troverà nel suo proseguio in autunno, e l'obiettivo, io ho fatto un calcolo, il primo anno erano 97, il secondo anno 197, che è più del doppio, e allora vuol dire che quest'anno dobbiamo rasentare il 400, insomma. La matematica non è l'opinione, quindi no, cioè, vado avanti con questo tipo di calcolo. Cioè nel senso, perché? Perché a mio modo di vedere, come avete sentito poi dalle testimonianze, risponde alla richiesta. Grazie per il fisco. Risponde a una richiesta da parte del mondo giovanile e loro riescono a intercettarla, giovani per giovani, e mi pare che si riesce a parlare lo stesso linguaggio. E all'inizio sembrava che dovesse essere una prima esperienza a schiattare lì, loro hanno anche molto discusso se farla tutti gli anni, perché non è un giocattolino mettere in movimento una roba del genere, dicono, o se farla un anno sì, un anno no, dice. Si è optato per farlo tutti gli anni, poi abbiamo i punti dei santi e dei morti che ci casca proprio a pennello, fino a questi 3 anni è arrivata proprio ad hoc e quindi ci permette di fare questo. Quindi io mi auguro che si dimostri effettivamente anche il senso di una solidarietà che c'è in questo territorio, che è molto forte e che in questa esperienza anche l'idea di partire tutti insieme per poi concludere tutti insieme e mostrare anche visivamente, dico, che riusciamo in qualche modo a vedere che i giovani non sono i soliti pelandroni da spritz e basta, dicono, sanno anche appunto mettersi in gioco. Prove di un mondo nuovo, 72 ore con le maniche in su. Per informazioni e dettagli www.provediunmondonuovo.it, ci sono poi i riferimenti più dettagliati con tutto il programma, la mail è info@provediunmondonuovo.it. Avete ascoltato Prossimo Tuo, rubrica in collaborazione con la Caritas.